Il regista Tommaso Mottola e la protagonista Gerild Mauset sul loro documentario Karenina and I, in streaming da giovedì 4 febbraio 2021. Il coregista Gianluca De Serio sul film Spaccapietre, in diretta streaming su Io Resto in Sala, domenica 7 febbraio 2021. Gianluca, ben trovato. Grazie, grazie mille per l'accoglienza e la disponibilità. Come lo presenteresti? In modo molto semplice, nel senso che Spaccapietre è la storia di un padre e di un figlio che cercano di rielaborare un lutto, cioè la perdita della madre, moglie, e nel farlo intraprendono un viaggio agli inferi nel mondo dello sfruttamento dei braccianti, del caporalato. Come è nato tutto? Un po' di anni fa, quando abbiamo letto della notizia della morte di una bracciante italiana, Paola Clemente Pugliese, che morì appunto lavorando i campi sotto padrone, sotto caporale. Era una bracciante aggiornata che ogni mattina prestissimo faceva moltissimi chilometri e si spostava per raggiungere le terre appunto dove lavorava in quel momento alla cineratura dell'uva. E quindi quando abbiamo letto questa storia immediatamente ci siamo messi a pensare alla nostra storia familiare, che ha visto nel 1958 morire nostra nonna paterna, anche lei bracciante, nei campi pugliesi del Foggiano. E anche lei lavoratrice in un sistema comunque di sfruttamento che anche all'epoca era quello del caporalato, naturalmente in situazioni diverse, se vogliamo anche migliori di oggi. E nostra nonna era una bracciante comunista, era una donna molto attiva nel paese, nel piccolo paese in provincia di Foggia, aveva fondato la Camera del Lavoro, aveva occupato le terre. Quindi per noi è sempre rimasta una sorta di figura, diciamo, di guida politica, ideale, ma anche umana, anche se non l'abbiamo mai conosciuta, perché quando morì il nostro padre aveva 10 anni. Conserviamo di lei una piccola foto in casa. E tutte queste riflessioni, questi collegamenti tra i fatti di oggi, dell'attualità, e questo fatto invece personale, intimo, di più di 60 anni fa, ci ha fatto nascere, diciamo, l'urgenza di anche noi elaborare un lutto, che in questo caso è un lutto che ci siamo accorti essere collettivo, e quindi abbiamo intrapreso questo viaggio di scrittura e poi di sopralluoghi, di letture, di incontri, e sono nati poi i personaggi del film e la loro vicenda. Ecco, proprio a questo proposito siete andati nei luoghi dello sfruttamento. Sì, esatto, siamo andati a vedere e a conoscere le persone, i braccianti che vivono nei ghetti, un po' in tutta la Puglia, ma non solo. Siamo stati al ghetto di Rignano, di Borgo Mezzanone, anche in ghetti meno tristemente famosi, ma più sporadici o improvvisati, che però brulicano nelle campagne pugliesi, a poche centinaia di metri in realtà dalle coste turistiche, del divertimento e del loisir, diciamo. E quindi abbiamo incontrato varie persone che ci hanno raccontato le loro storie molto drammatiche, che abbiamo in qualche modo poi distillato in alcuni aspetti della vicenda del film, ma ti assicuro che veramente quello che abbiamo ascoltato e visto è molto più forte di quello che abbiamo raccontato, anche se molti ci dicono che il film è molto crudo, violento e racconta una realtà a tratti anche difficile da sostenere, ecco. E poi ci siamo avvalsi anche di una consulenza di un giornalista, Leonardo Palmisano, che insieme a Ivan Segné ha scritto Ghetto Italia, un bellissimo libro inchiesta sui ghetti, non solo pugliesi ma di tutta l'Italia, appunto. E poi naturalmente altre letture importanti, una fra tutte quella di Leo Grande. Che impressioni ne avete ricavato? L'impressione principale è quella di un mondo non invisibile in realtà, di un mondo facilmente raggiungibile alla vista e alla conoscenza, però un mondo che sembra essere talmente scomodo da accettare che si fa finta di niente. E poi la cosa che ci ha veramente colpito oltre naturalmente alle condizioni disumane di schiavitù in cui vivono migliaia di braccianti stranieri ma anche italiani, la cosa che ci ha colpito di più è visitare i cimiteri di alcuni paesi e scoprire in questi cimiteri delle tombe senza nome, ai ignoti, tombe che conservano le ossa di braccianti di cui nessuno ha chiesto il corpo. Perché? Perché nessuno sa dove sono andati a finire, nessuno sa neanche che sono morti spesso, sono come dei desaparecidos, ma non in un tempo remoto, in un luogo lontano, qui, nei cimiteri dei nostri paesi. Questa è stata, diciamo, la cosa più forte e più commovente anche che abbiamo incontrato nei nostri sopralluoghi. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Credi, un abbraccio anche a te Federico e a tutta la radio e agli ascoltatori, grazie mille davvero. Il coregista Gianluca Deserio sul film Spaccapietre, in diretta streaming su Io Resto in Sala, domenica 7 febbraio 2021. Con David degli auto-organizzati dello spettacolo Roma per presentare l'assemblea cittadina dei lavoratori e lavoratrici dello spettacolo Un anno senza spettacolo a Roma, al laboratorio occupato autogestito Acrobax, sabato 6 febbraio 2021. David, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte. Parliamo un po' di come si arriva a questo appuntamento. Sì, allora noi come lavoratori e lavoratrici dello spettacolo abbiamo insomma voluto rilanciare questo appuntamento di costruzione pubblica della manifestazione del 23 febbraio. Appunto, il 23 febbraio sarà un anno dal blocco degli spettacoli dal vivo, insomma legati alla crisi pandemica che stiamo vivendo, e ovviamente per tutti i lavoratori e le lavoratrici è stato un anno veramente molto faticoso, non solo perché non hanno potuto svolgere la propria professione, ma soprattutto per la crisi sociale e economica scaturita da questo blocco. Ecco, sono stato un anno senza reddito, un anno senza spettacolo, un anno senza eventi, ma è stato insomma anche un anno di battaglie, di assemblee, di momenti di incontro e di costruzione di insomma manifestazioni anche importanti che hanno visto un settore riconoscersi e trovare anche gli strumenti e la capacità di mobilitarsi proprio per tornare e far vivere ancora quello spirito che ha animato tanti momenti. In quest'anno abbiamo pensato a Roma di costruire questa manifestazione del 23 febbraio, che è una manifestazione nazionale che avverrà in tante altre città italiane in contemporanea, e abbiamo pensato di costruirla partendo insomma da quello che per noi è il metodo con cui fare le cose, cioè parlarsi, discutere insieme, e abbiamo appunto lanciato questa assemblea per sabato 6 alle ore 10, l'assemblea cittadina, in cui abbiamo invitato non solo i colleghi e le colleghe ma anche le realtà culturali della città di Roma per immaginare insieme cosa costruire per il 23 febbraio e anche come continuare un percorso di mobilitazione che in questo momento, anche e soprattutto dovuta alla crisi di governo, deve ritrovarci preparati e pronti e capaci di navigare in questo nuovo mare che non sembra dare delle risposte a quelle che sono le esigenze dei lavoratori e delle lavoratrici dello spettacolo. Ecco, quali sono stati finora i punti centrali delle rivendicazioni? Ovviamente il punto fondamentale che noi abbiamo messo sul piatto è quello di un reddito di continuità. Serve uscire dalla logica dei bonus e costruire misure strutturali di sostegno al reddito. Ovviamente questo è per tamponare l'emergenza venutasi a creare dalla crisi pandemica, ma crediamo che sia necessario, e questo è un altro punto fondamentale, non tornare alle condizioni di lavoro precedenti al Covid-19, per cui vogliamo una riforma strutturale del settore, del settore dello spettacolo dal vivo, soprattutto per quello che riguarda i contratti, le paghe minime, il riconoscimento del lavoro usurante, ovviamente un strumento di sostegno al reddito per chi svolge questo lavoro in una maniera intermittente, anche un modo nuovo di intendere il finanziamento pubblico più legato alla costruzione di un lavoro sano, fuori dalla logica della precarietà che è sì strutturale ma è anche eccessivamente abusata all'interno di questo settore. Ecco, questi sono un po' i punti che abbiamo in questo anno provato a mettere sulla discussione pubblica, ma anche nei confronti delle istituzioni, e anche riuscendo a farci riconoscere, nel senso che siamo stati a livello nazionale convocati dal Ministro del Lavoro dal ministro Franceschini come realtà auto-organizzate, quindi penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro, c'è da continuare e soprattutto alla luce di un nuovo governo c'è anche da alzare di nuovo la voce, perché questa crisi tutta interna alla politica sta mettendo anche a rischio ancora di più il reddito dei lavoratori e delle lavoratrici dello spettacolo. Per quanto riguarda l'appuntamento di sabato, è già stata pensata una strutturazione della giornata? Sì, allora sabato alle 10 ci sarà questa assemblea cittadina, per cui ci vogliamo confrontare all'interno dell'assemblea e trovare lì gli strumenti, diciamo, e le modalità della manifestazione del 23 febbraio, per cui io invito tutti e tutte a partecipare all'assemblea, a portare il proprio contributo. Alla fine dell'assemblea, che comunque avverrà nel rispetto del distanziamento di tutte le misure anti-Covid, alla fine dell'assemblea inaugureremo anche la nuova sede dello sportello sindacale, che da più di 6 mesi sta facendo un ottimo lavoro di sostegno e di tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici dello spettacolo. Ci lasci anche dei riferimenti internet per saperne di più? Sì, allora sicuramente si può seguire la pagina Facebook Auto-organizzati di Spettacolo Roma, che fa parte del network nazionale per professionisti dello spettacolo e della cultura Emergenza Continua. Sulla pagina Facebook si possono trovare, insomma, tutti gli altri riferimenti, la mail, il numero di telefono, il canale Telegram, insomma tutto quello che è il mondo social. Un anno senza spettacolo. Assemblea cittadina dei lavoratori e lavoratrici dello spettacolo a Roma, all'Acrobax, laboratorio occupato autogestito, sabato 6 febbraio 2021. Un saluto e un ringraziamento a David degli auto-organizzati dello spettacolo Roma. Un abbraccio in bocca grazie. Al lupo e a presto. A presto, grazie a voi. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.